I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. La prima antenna che riesce a cogliere certi segnali di disagio e quindi il fatto che i ragazzi, i bambini siano lontani dalla scuola da più di due mesi ormai, nel Lombardia ormai ci abbiamo quasi al terzo mese, e non solo ha quel danno in sé, il danno primario della mancata scolarizzazione, ma produce come effetto collaterale anche questo, che non vi è questo occhio ulteriore che possa cogliere certi segnali di disagio. E quindi mi aspetto che alla ripresa e dell'attività dei servizi sociali un po' più ampia, soprattutto della scuola, speriamo a settembre, potranno evidenziarsi una serie di esiti. Di effetti di questa chiusura. Sì, della chiusura in generale, dello star chiuso in casa. Cosa è successo nel chiuso delle case ai più piccoli? Cosa hanno significato per i bambini questi quasi tre mesi senza scuola, senza amici, senza nonni e senza parchi? Degli effetti su molti fronti della mancanza di vita scolastica si parla e si parlerà ancora a lungo, ma c'è una preoccupazione che nel mondo della giustizia minorile si condivide in questi giorni e che con la mancanza delle antenne della scuola, per dirla con Ciro Cascone che guida la Procura dei Minori a Milano, siano rimaste nel buio delle mura domestiche anche tutte le sofferenze a vari livelli dei più piccoli, quelle che spesso per primi sono proprio i maestri a notare, ma su un altro fronte, questi sono stati anche mesi di bambini rimasti soli, con genitori portati in ospedale perché contagiati, o dei bambini a cui nel chiuso delle comunità sono stati impediti i contatti con la famiglia, o di bambini ancora una volta al centro di contese giudiziarie tra genitori separati che hanno approfittato anche dei divieti dell'emergenza per farsi la guerra, per non parlare poi di tutto quello che è successo dentro i carceri minorili. Voglio mio figlio. Chi ti dice che ti voglio? E a te chi ti dà tanta sicurezza che non mi voglia? È tardi. Ma non è poi tanto tardi, è appena 20 minuti. Tutte le altre mamme erano lì molto prima di te. Non succederà mai più, va bene? Io non dico che non abbia bisogno di suo padre, ma sono convinta che abbia più bisogno di me. Sono sua madre. No! La mia ex moglie dice che adora Billy e io credo di sì, ma vorrei sapere quale legge dice che una donna è un genitore migliore semplicemente in virtù del suo sesso. Non sono stati tra il 5-10% massimo, una percentuale molto bassa, il conflitto è esitato addirittura in domanda giudiziale. Quindi abbiamo avuto varie pronunce di vari tribunali, la prima del Tribunale di Milano già a metà marzo che ha chiarito che comunque nonostante appunto tutte le misure restrittive e gli spostamenti dovevano continuare a esercitare gli spostamenti per principio, per cui si doveva mantenere il diritto alla bigenitorialità nonostante tutto. Ci sono stati tribunali invece di avviso diverso che hanno sospeso, probabilmente Bari, Bussa Sanzio, qualcun altro, non mi ricordo, che hanno in casi concreti, attenzione, non parliamo di regole generali, in alcuni casi concreti hanno un po' compresso, sospeso, limitato, proprio perché veniva rappresentato che appunto l'altro genitore appunto lavorava, era medico, infermiere, oppure faceva un'attività, non era anche lui bloccato in casa, ma aveva un lavoro di quelli necessitati a svolgersi, e quindi ci poteva essere questo rischio. Quindi hanno per un certo periodo, per un mese, sono arrivati a dire bene, continuate con gli incontri, videochiamate, appena si riapre. Devo dire che poi con la fine dell'aprile, inizio di maggio, sono cadute anche dove c'erano tutte queste restrizioni, ormai andiamo verso una riapertura, diciamo che oggi il problema è superato, non c'è più. No, certo, adesso si comincia a fare anche un po', diciamo, il bilancio di quello che è successo, ma anche rispetto a coppie in comuni o regioni diverse, anche in questo caso alcune volte si sono poste delle questioni. No, ma anche all'interno dello stesso comune, molto, era proprio... qualche volta la questione è sorta proprio per questa ragione, cioè in base ad esigenze, alla situazione concreta legata all'attività che uno dei due coniugi svolgeva e che poteva essere ritenuta, come dire, più esposta. Possibili contagi, ci sono stati provvedimenti che hanno limitato, oppure provvedimenti che hanno rigettato le richieste di uno dei due genitori e hanno detto che hanno continuato tranquillamente perché prevale il diritto alla bigenitorialità. Attenzione, quando un giudice afferma una cosa del genere, non c'è mai questa affermazione generale. In generale prevale quello su quell'altro, prevale il diritto di visita con il diritto alla salute, ma è una valutazione fatta nel caso concreto. Cioè, se in un caso concreto non viene rappresentato quale potrebbe essere questo rischio accresciuto, chiaro che il giudice dice continuate pure. Se invece in qualche modo viene rappresentata una situazione, perciò è fatto l'esempio dei genitori che avevano attività sanitarie, medici, ecco, medici che lavoravano in ospedali Covid, a quel punto, ma come il diritto alla salute magari viene tutelato maggiormente. Certo, è tutto molto specifico, nel senso che ogni volta è stato dovuto, diciamo, anche essere calato nella situazione specifica, e questa è la ragione per cui non ci sono anche pronunce, diciamo, univoche anche rispetto alla necessità di questi diritti diversi. Le situazioni concrete che venivano esaminate e portate, però le ripeto, uno, la sensazione che per fortuna sono state poche queste situazioni che sono degenerate, tra virgolette, in provvedimenti giudiziari, nel senso che uno dei genitori ha dito il tribunale, ha chiesto al tribunale una pronuncia, ma la maggior parte dei casi, secondo me, il buon senso e l'accordo tra i genitori ha trovato una soluzione concreta anche. Quindi magari so anche di varie situazioni in cui appunto le visite sono state un po' diradate o bloccate, ma su accordo dei genitori. E questo per un buon senso, diciamo, certo. Ma sì, senza bisogno di andare davanti al giudice. In quei pochi casi in cui ciò è avvenuto, diciamo che è avvenuto anche come spesso avviene, perché ci sono questi strascichi di conflittualità tra ex coniugi o tra ex conviventi, chiaramente anche non sposati, per cui si tende sempre ad anteporre davanti il diritto a ottenere qualcosa, senza a volte rendersi conto che vi è una contrapposta, un contrapposto interesse magari che ha pari dignità di tutela. Se già le conflittualità tra coniugi che si separano esplodono molto spesso proprio per i figli, negli ultimi mesi, nel già difficile equilibrio di una coppia rotta, sono subentrati i divieti imposti dall'emergenza Covid. Per fortuna, come avete sentito dal procuratore minorile del capoluogo della regione più investita dal contagio, cioè Milano, solo in una percentuale bassa di casi i tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi sulle visite, e le sentenze sono state però di segno opposto. A volte hanno stabilito la prosecuzione degli incontri nonostante i divieti del lockdown, a volte invece hanno stabilito la sospensione. E questo perché, come sempre, ogni pronuncia va calata nella specificità della storia. Di sicuro però i decreti non hanno aiutato, almeno all'inizio. Io ho limitato l'ordinarietà perché prima avevo l'abitudine di vedere mia figlia quasi quotidianamente. Certo. È ovvio che conoscevamo i limiti, nel senso che a qualcuno è stato chiesto, a un mio amico separato, di portare con sé l'omologo del tribunale dove stavano specificati i giorni. Certo. Proprio per limitare la libera circolazione, è una questione di sicurezza. Allora, se tu hai il mercoledì il diritto di visita e poi un weekend sì e uno no, io il controllo te lo faccio. Se ti fermo, ti faccio il controllo, voglio sapere dove e quando stai andando. Chiaro, chiaro. È chiaro. È questo per evitare i furbi. Però in qualche modo, diciamo, questo chiarimento sulla possibilità di vedere i figli è subentrato in un secondo momento. All'inizio sembrava che non fosse possibile. Infatti sì, non c'era nel decreto, non solo non era chiaro, non c'era da nessuna parte, pure anche perché la prima ricerca che si è fatta è sulla famosa autocertificazione, cioè io dove i motivi per cui posso muovermi sulla certificazione erano due o tre, e cioè quelli classici, lavoro, salute e necessità. Però non c'era, io come tanti i primi 15 giorni non ci siamo mossi, io perlomeno parlo per me, certo, i primi 15 certo. giorni io non ho visto mia figlia, finché poi ovviamente inizi a chiedere, inizi a vedere, inizi a studiare un po' di più e capisci di poterlo fare. Giampiero, avvocato e papà separato, ha fatto prevalere il buon senso, oltre che il rispetto delle norme, negli incontri con sua figlia in questi mesi di divieti ed emergenza. Così all'inizio, anche se con dispiacere, ha rinunciato a quelle visite tanto care, perché l'incertezza dei primi tempi dell'emergenza è diventata, su molti fronti, come ammettono anche tanti magistrati, incertezza anche normativa, acuita poi da decreti non chiari, che all'inizio nulla chiariva scrivono su casi concreti come questo. Eppure questa situazione, come abbiamo già sentito, ha acuito casi di tensione. Poi, a rispondere alle domande dei tantissimi genitori separati, sono arrivate alcune delle famose FAQ al decreto del Presidente del Consiglio. Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario della prole, si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti. Pertanto, in data 10 marzo 2020, con decreto Io resto a casa, il governo ha definitivamente chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti. In ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Una volta pubblicate queste FAQ, che ormai fanno giurisprudenza, sorride una toga, Giampiero e come lui tanti altri padri separati d'Italia hanno ripreso con regolarità le visite ai figli rimasti con la mamma, tra misure di sicurezza, cautele e soprattutto buonsenso, quello sforzo alla mediazione, cioè che sempre più e ancor di più nella giustizia minorile ci si sforza di far prevalere, non sempre con successo. Anche in momenti, molto sono passati tanti anni, ma anche nei momenti più brutti di guerra, per accordi presi e chiarimenti fatti all'inizio, non abbiamo mai messo in mezzo mia figlia alle nostre guerre e ho avuto sempre piena libertà di vederla. Io ho i giorni stabiliti, ma anche quelli non è che venissero rispettati, nel senso che avevo ampia libertà di vedere mia figlia, di andarla a prendere, di andarla a trovare a casa, anche adesso che la madre ha un compagno. Poi è arrivato ovviamente questo momento qua. Come ha funzionato in questo momento che ha fatto stare tutti dentro casa? Io ho seguito quello che diceva il decreto dall'inizio, perché c'era l'autorizzazione, il diritto di visita veniva rispettato. Quindi bastava autocertificarlo, io liberamente ho messo sull'autocertificazione, sono andato a visitare mia figlia ed andavo nei giorni stabiliti. Ovviamente le accortezze però sono state sempre quelle di chi come me vive con un genitore che ha 75 anni. Sono però scelto da quel giorno in poi di non portare mia figlia più a casa e di andarla a trovare dalla madre. Non sono andato il giorno di Pasqua da mia figlia perché sapevo di essere fermato e mi scocciava, ma il giorno di Pasquetta sono andato a trovarla, ho chiamato prima il maresciallo della caserma dei carabinieri del mio paese chiedendo l'autorizzazione letteralmente, e lui mi ha detto: no, però non vi preoccupate, se anche vi fermano fate chiamare me, perché io sto andando da mia figlia, non sto andando a prendere aria, cioè non utilizzo questo come scusa per prendere aria e mi muovo per questo motivo. In questo caso i contesti, diciamo, anche più piccoli forse aiutano, perché altrove invece non è stato così chiaro il fatto che la possibilità, diciamo, e quindi anche il diritto di poter andare a vedere i propri figli prevalesse anche o dovesse convivere con la necessità di tutelare la salute propria e altrui. Ecco, questo è stato un po' il tema che in alcuni casi ha reso più complesso il fatto di... Cambiato gli atteggiamenti però, viste le autorizzazioni che avevo, ho cambiato io gli atteggiamenti che avevo nei confronti di mia figlia, con la quale ho un legame molto molto forte come ogni padre, d'altro canto. Però abbiamo limitato i contatti, i nostri baci non ci stanno più da 2 mesi, qualche abbraccio ma all'altezza della cintola, non di più. Ma con la sospensione quasi totale dei servizi della giustizia in questi mesi di lockdown, sono rimaste congelate pure le cause riguardanti minori allontanati dalle famiglie, bambini cioè rimasti nelle comunità senza più neanche la possibilità di incontrare i genitori, e famiglie rimaste con ancora più dolore in questo limbo di attesa, anche se tutto era dettato da esigenze di tutela della salute. Ma con quali danni per i più piccoli? Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. I racconti di Storiacce. Forse lo sapremo solo col tempo cosa sia successo a certi bambini. Saranno solo i mesi o forse anche di più a raccontarci cosa abbiano significato per i più piccoli queste lunghissime settimane di chiusura in casa.